America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Donald's assuming he can't figure out how to get out of it, but what we want to do is to replenish the Social Security Trust Fund. Beh, la ricorderete la campagna elettorale del 2016. Bene, improvvisamente in questo fine settimana che si è appena concluso, sembra di aver fatto come un balzo all'indietro proprio alla campagna presidenziale del 2016. Perché che è successo? Hillary Clinton, in una intervista che ha concesso appunto nel corso del fine settimana, ha messo in dubbio la legittimità della vittoria di Trump alla Casa Bianca e ha citato naturalmente le interferenze russe sul voto, sul sistema politico americano. Ha fatto riferimenti indiretti ovviamente ai contatti che ci sono stati fra Donald Jr. e WikiLeaks e comunque a persone vicine al Cremlino con esponenti della campagna di Donald Trump. Ma c'era bisogno di andare a rinvangare quello che è successo ormai oltre un anno fa? C'era bisogno di creare questa tensione? Perché Hillary Clinton ha lanciato questo attacco? Beh, secondo me una delle spiegazioni è che questo di Hillary Clinton è un attacco preventivo. Ve l'ho raccontato alcuni giorni fa, il Dipartimento della Giustizia aveva annunciato di voler aprire un'inchiesta sulle dinamiche che avevano portato il Dipartimento di Stato di Hillary Clinton ad approvare la vendita di una importante compagnia di uranio canadese ai russi. E il sospetto, o meglio, ormai questa cosa un pochino la conosciamo, qual è? Che coloro che erano dietro questa operazione avevano dato parecchi milioni di dollari alla fondazione di Bill Clinton. E dunque la Hillary gioca, come dire, di rimessa forse su questo possibile attacco che arriva dal campo di Trump improvvisamente. E Trump come risponde? Trump, naturalmente sappiamo, quando viene provocato reagisce subito, immediatamente, e cerca il rilancio. E cosa ha risposto? Su un tweet: la disonesta Hillary è la peggiore e maggiore perdente di tutti i tempi, e consiglia a Hillary Clinton di andare avanti a farsi gli affari suoi e magari a riprovarci fra 3 anni, quando scadrà il mandato di Donald Trump. E Hillary naturalmente ha risposto anche lei: apparentemente il mio ex fidante è ossessionato dal fatto che io possa prendere una posizione. Onestamente, tra twittare e giocare a golf, ma non vedo proprio come riesca a concludere qualcosa come presidente, non ha il tempo materiale. Per Hillary ci sono altri problemi, per esempio Maureen Dowd, grande columnista americana, ha lanciato un attacco al cianuro contro Hillary. Fra le due non c'era mai stato buon sangue, anche ai tempi dell'amministrazione, e Maureen Dowd scrive: ma dice, visto che era tanto amica di Weinstein, di Harvey Weinstein, sarebbe stato possibile scrivere, confessare quello che molte donne hanno confessato se Hillary fosse stata alla Casa Bianca? Era molto amica di Harvey, forse qualcuno non avrebbe avuto il coraggio. Scandali sessuali che si allargano, peraltro, gli abusi omosessuali di attori, sceneggiatori gay come Gore Vidal, per esempio, sono andati in pasto al pubblico con un recente libro, fino al mondo dello sport. La notizia di un paio di giorni fa: 290 allenatori, dirigenti olimpici americani, sono stati accusati di molestia. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.